si dice che uno spot di 30 secondi può essere scritto in 6 minuti. Ciò significa che in teoria 10 spot potrebbero essere scritti in un'ora. Ma quanto è realista chiedere a un copywriter di sputare fuori uno spot di qualità, fresco, ogni 6 minuti? Uno spot radiofonico di 30 secondi richiede 75 parole. 75 parole, lo standard per 30 secondi. 75 parole per convincere. Io ne ho una, hook and hook. Io ne ho una sola. Una parola per convincere. Una, sufficiente. Uno spot Radiofonico di 30 secondi richiede 1, 2, 3, 4, 5, 6, una parola. Hug and Hug, l'altro studio legale in Ticino.